Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Ma chi diavolo vi credete di essere? Siete solo Hobbits! Autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni di tutte le conversazioni telefoniche del dottor Silvio Berlusconi, parlamentare all'epoca dei fatti, oggetto della richiesta dell'autorità giudiziaria. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Barbara, scusami il termine, adesso sono veramente stanca. Ascolta, non è casa mia quella, Silvio, non è casa mia quella, sono in mezzo alla strada ancora, dopo 4 anni di merda, ancora, ma stiamo scherzando, basta basta, adesso è presa per il culo, sono stanca, stanca, stanca, ogni anno siamo dentro così, basta. Sì, di fare il bonifico e poi ci vediamo, e poi noi veniamo da te sabato e ti veniamo, no, comunque. No, se c'è il bonifico non c'è bisogno di venire. No, no, no, veniamo! Veniamo anche se c'è il bonifico. Vabbè, d'accordo. Ciao. Capito chi comanda? No, no, no, noi vediamo, Silvio. Ma no, ma no, no, ma no, ho detto che veniamo lì! Queste telefonate non saranno agli atti del processo Ruby Ter. Ho perso il conto, Ruby 1, Ruby 2, Ruby 3. Io sapevo Ruby Tuesday, ma siamo a Ruby Ter. Signori, sono le 6:33 minuti. Oh, è tornata la politica, finalmente è tornata la politica. Napolitano che sul Foglio chiede in pratica: Renzi modifica l'Italicum. Ha sentenziato l'ex capo dello Stato e Renzi avrà preso nota. Prende appunti il giovincello. E così, così farà forse, non si sa. Però bisogna cambiare l'Italicum. E va bene, queste telefonate invece non le sentirete nel Ruby Ter, eh? Saluto da Rotterdam il nostro ascoltatore Gianni, che sempre a quest'ora ormai ci ascolta grazie allo smartphone. Grande Gianni da Rotterdam. Malino, ti hanno cattivo WhatsApp, ma non è crede. Eh sì, al 349-238-6666 potete mandare i vostri messaggi, i vostri WhatsApp. Allora, intanto voglio salutare i nostri ospiti. Carla Rocchi, buongiorno. C'è una bella notizia per Carla Rocchi. C'è una bella notizia. Diamola. Daria Vignardi ha detto che questo sarà l'ultimo anno per il circo in TV. Basta, basta circo in TV. Sì, lo sapevamo, per me è una bella notizia, ma credo per tutti, perché così questa roba del circo in TV è proprio una così noiosa, così stucchevole, così vista, così roba vecchia, in soffitta, via. Roba vecchia, in soffitta, va bene, va bene. Insieme a Carla Rocchi c'è Maurizio Bianconi, onorevole. Buongiorno. Quanto avrebbe voluto stare al Senato ieri Maurizio Bianconi? No, io lo sapevo che andava così la cosa. Cioè, a schifio. No, che Renzi e Berlusconi sono d'accordo. Ah, eccolo qua, l'inciuccione. Ne volete un'altra, ma non lo so io. Adesso ce la dà. Prima però c'è una notizia, Bianconi. Rocchi, c'è una cosa fondamentale da dire a tutti i nostri ascoltatori. È nata! Carla Rocchi è nata! È nata Benedetta Lussana in Molteni! Ah, bene! Vabbè, auguri! È nata Benedetta! Benedetta Lussana, la figlia della nostra Aurorina. Io un pochino, insomma, devo dire, sono rimasto male che non ha voluto fare il parto in diretta qui a 24 mattino e in proprio così dalla sala parto. Però è nata, tutto a posto, tutti a posto, tutti contenti e felici. È un fiocco azzurro anche alla camera, Bianconi, è il suo collega Molteni, della Lega. È fioccolosa, si chiama Benedetta. Sì, sì, fiocco azzurro, perché per il padre, dicevo, per il padre, fiocco. Sì, è un amico, è un collega, è un amico. Va bene, è diventato papà, va bene. Benedetta Lussana in Molteni, noi la chiamiamo così. Non l'ha voluta chiamare Aisha, non l'ha voluta chiamare, non so, non l'ha voluta chiamare come i nomi arabi. Porterà il velo comunque tra vent'anni. Va bene, apriamo il Parlamento, dai. Perché Bianconi è convinto? Bianconi è un fautore dell'inciucione, cioè che è tutto, e questa ne è la riprova, no? Sì, è una delle tante riprove, è l'ultima del giorno, insomma. Ora poi cambia l'Italicum, come io avevo detto, che era un gioiaio. È una cosa fatta malissimo. Io quando ha parlato napoletano. Ma napoletano parla come gli dicono di parlare ormai. Ma chi? Da chi è che prende ordini napoletano? No, non voglio dirlo perché non voglio querele, ma insomma, napoletano è un esecutore fedele di altrui determinazioni in Italia ormai da più di 30 anni, anzi da sempre, perché prima gli faceva quello che gli dicevano da una parte, ora fa ed esegue quello che dicevano da un'altra parte. Ma chi è? Robe di Bilderberg? È un uomo di quelli, lui. Lui è un uomo fondamentale in quella catena. Lei pensi che ha fatto senatore a vita uno che non aveva mai visto il Parlamento il giorno prima di farlo primo ministro? Questo non si è visto neanche né Topolino, non lo so, Amanda Bassotti. Non riesco a trovare Monti, una cosa. Monti. Esatto, non riesco a trovare una cosa così. Un uomo che si è dato da fare in una maniera ignobile. Uno ha voluto, era fautore dei bombardamenti in Libia, era tutto contento. Vabbè, diciamo, Napolitano non la mette di buon umore. Non mi metti buon umore che gli italiani lo abbiano tenuto lì, che sia stato rivotato. Vabbè, ma quale sarebbe l'altra prova? Cioè, perché ieri ne è successa una, ma non è l'unica della prova dell'inciucione. Quale sarebbe l'altra prova dell'inciucione? No, questa è l'ultima. No, questa è l'ultima. L'ultima in ordine di tempo. Sì, questa è l'ultima in ordine di tempo. Poi aprite Canale 5 e Italia 1 e vedete poi da chi parte sta Berlusconi. Non lo so. Carla Rocchi, c'è questo inciuccione, non ce l'avevamo accorti. Cioè, non è un inciuccione, è un accordo normale. Un accordo, vabbè, chiamiamolo come. Io lo chiamo inciuccione perché mi piace di più. Come se... Ma in realtà questo è tutto indecifrabile, abbastanza indecifrabile quello che è successo. Come posso dire? al Senato. Al lume della logica, no? Se uno potesse pensare alla mancanza di pressioni, non capisce molte cose. Se uno pensa che ci siano invece delle pressioni, qualche cosa la capisce. Ma tra l'altro, scusate, Luigi Ferrarella scrive, che è un ottimo cronista di giudiziaria, scrive oggi sul Corriere della Sera, che non cambia nulla, perché questa non è un'intercettazione, tecnicamente, ma sono due ragazze che registrano, lo chiamano, e registrano con una registrazione ambientale, quindi rimarrà la voce nel processo. Non è... potrà essere usata solo contro le ragazze, ma non contro di lui, ma ce ne importa qualcosa? No, cioè, infatti, povere ragazze, pure questa contro di loro. Insomma. No, povere ragazze direi proprio di no. Povero disgraziato lui che ci si è messo in questo casino. Però è bello. Però... Lo trattano in una maniera... È fantastico, Bianconi, diciamo la verità, quando lei chiamava Berlusconi, magari Berlusconi usava toni perentori anche, cioè, no, Maurizio! Cortese, no, Berlusconi, guardi, e invece qui era in scacco proprio Silvio, politico, ma è un uomo di una cortesia impagabile. No, ho capito, però magari una volta si negava, non lo so, sarà capitato. No, come non l'ha mai fatto, mi ha chiamato a casa tante volte. Io di Berlusconi tutto posso dire, ma non che non sia un uomo urbano e cortese. Non ci sarà stata almeno una volta in cui era ovviamente con queste ragazze che si è negato al telefono con lei? No, io non l'ho mai chiamato, ma ha sempre chiamato lui. Io l'ho mai chiamato. Ah, ecco, quello è il trucco. Anzi, una volta gli avrà sbattuto anche il telefono in faccia, che era impegnato, non so, a fare il sugo. A fare... No. La raffigurazione di un ex presidente del Consiglio, di un uomo così importante, in mano a queste due signorine è veramente è Carla Rocchi, power, il potere femminile, women power, Rocchi. Il potere femminile, francamente, è proprio tutta un'altra cosa. La verità è che quando una persona grida, come in questo caso, chi è dall'altra parte del telefono si sconcerta, pure se è il presidente del Consiglio. Berlusconi è un po' basito a sapere che una barbara guerra così, no, basta! Ma vuol dire che lei si sente in diritto di poterlo fare, questo è grave, capito? Sì. Non il fatto che lo faccia. Sente il diritto di poterlo fare, però alla fine di tutti i giochi questa storia è finita come... è sgonfiata come un soufflé. Vabbè, cioè la verità è che stiamo parlando da 5 minuti di intercettazioni di Berlusconi con le oggettine, una cosa che non succedeva, no? All'epoca non si parlava d'altro in Italia, qualche anno fa. Adesso basta. C'era da sfiancarlo, ormai Berlusconi è sostanzialmente è il Sancho Panza di Don Chisciotte di Renzi, quindi è un secondo, non è più un protagonista, quindi è il Sancho Panza di Don Chisciotte. No, vabbè, cioè questa non è male, Rocchi, è il Sancho. Devo dire che essere in trasmissione con Bianconi è sempre un piacere, perché è troppo divertente. È il Sancho Panza di Don Chisciotte, non è male, Berlusconi. Ma come, lui l'uomo più potente del mondo, Bianconi, adesso Sancho Panza. Deve stare dove sta il governo, dove volete che sia. Qualunque governo governo, lui deve stare lì. Vabbè, ma qua stiamo parlando come se fosse normale e assodato, che ha ragione Bianconi, che c'è un accordone, che è tutto già preordinato. È una convenzione più che un accordone, perché Berlusconi non può stare in un posto diverso da dove sta il governo. Questo comincia da Craxi, questa storia, poi prosegue in proprio quando la politica viene meno, e adesso che la politica in qualche maniera è tornata, in maniera non brillantissima, e lui sta dove può e dove deve stare per le sue aziende, per i suoi interessi, dove volete che stia, sulle barricate come Giovanna D'Arco. Bianconi, mi convinca che c'è questa cordone, io la seguo. Il discorso di fondo è quello che ha fatto la Rocchi. Berlusconi bisogna che stia al governo. Chi è che ha le aziende di quella importanza e i dipendenti sempre dalla vita del governo e dalle scelte politiche, non può che stare al governo. Quindi questo è in un modo o di nell'altro, o direttamente o indirettamente. Il partito Mediaset, con Faloniere e gli altri, Letta eccetera, vogliono andare da quella parte. Verdini gli apre il cunicolo importante, gli fa il mediatore, gli sta un po' di qua e un po' di là, e fa comunque il lavoro che sporco ancora per lui. Vuole degli esempi? Sì, sì. La Mondadori che compra RCS senza colpo ferire, sarebbe successo il finimondo in altri tempi. Sì. E un suo uomo, anzi il suo uomo principale nel mondo dell'industria e degli affari, che diventa amministratore delegato di Telecom, al fine questa di fare... Questa ce l'ho già detta. Esatto, e io gliele dico, lei me le dice, io gliele dico, e tutte le volte che me chiede io gliele dico. Dice, dice, certo. E poi, quando c'è stato tutte le volte in Parlamento... che mancavano i voti eccetera, Forza Italia si è straniata quando non bastava Verdini, oggi ha visto quello che è successo qui, le rete 5, canale 5 a completa disposizione di Renzi, la D'Urso gli ha fatto un'intervista, che se me la fanno a me, bravo come sono, io divento subito primo ministro, se mi dà mezz'ora così mezz'ora dalla D'Urso e Bianconi presidente del mondo. Allora, voglio dire, siccome ha ragione la Rocchi, che sì, la politica è tornata ma male. Se conta questo, mandateci niente. Vabbè, vabbè. Allora so che vi voglio rallegrare. Oggi, tra l'altro, torna la politica. C'è una intera pagina del Corriere della Sera, ve lo giuro, l'ho vista con i miei occhi, che parla del nuovo centrodestra e delle varie correnti e le divisioni del nuovo centrodestra. L'ho vista con i miei occhi, esiste. Non erano le 5:30 del mattino con le traveggole, cara Carla Rocchi. C'è una pagina. Una pagina, e beh, tu intera. Una pagina del Corriere, ci stanno tutti dentro con le biografie, con le cose. Tutto il nuovo centrodestra ci sta tutto sì, in una pagina. Sì, sì, sì, più o meno effettivamente sì. Finisci la pagina, dice proprio non rimane più nulla fuori del nuovo centrodestra. Una pagina del Corriere della Sera c'è tutto. Sì. Entra tutto, vero, entra tutto. Ma anche l'hanno presa in considerazione in maniera così seria, non riesco a capire perché. No, va bene. Siamo d'estate, siamo d'estate, feuilleton, queste storie. Sì, ma c'è qualcosa sotto che non. Aia, c'è un altro complottino. Non complotto. Sono complotti. C'è quello che, qualcosa che, sotto. Quello che va capito è che ci sono tre livelli di politica. Il primo livello, quello che oggi conta di più, è il livello degli affari. Sì. Essendo debole la politica, gli affari determinano la politica. Ecco l'accordo Renzi-Berlusconi. Questo è il primo livello. Il secondo livello è quello che appare, quello che viene alla radio. E poi? È praticamente quello di Renzi, no, che racconta le novelle. E poi c'è il terzo livello, che è quello delle leggi che si fanno e non si fanno, e delle autorizzazioni che non si danno e non si danno, non in funzione di quello che viene detto, ma in funzione degli accordi che sono stati fatti. Oh, è tanto i tre livelli della politica. Andiamo al traffico, che poi vi riaccolgo con un vostro amico, Brunetta. Manda il traffico. A vedere meglio le immagini del camion che ha fatto la strage a Nizza, sembra che molti dei colpi degli agenti che poi hanno fermato il camion stesso, oltre che sul parabrezza al lato del guidatore, erano molto concentrati anche sul lato passeggero. Allora mi chiedo, c'era qualcun altro sul camion? E se sì, perché è stato tenuto nascosto? È una mia impressione, cosa ne pensate voi? E bravo Milan, che te ne vai in ferie! Come minchia ci è arrivato il Pokémon Go alla camera? Andiamo bene. Hai troppi problemi te Milan, troppi problemi ne hai! Alessandro, dalle notizie giuste, altro che Pokémon, Pokémone! È pieno di mone qui! Ciao Beo! Vabbè, vabbè, ma pare che ci siano i Pokémon alla camera, Bianconi? Non so cosa siano questi Pokémon. È un po' che li sento nominare io, ma non ho capito cosa cavolo. Allora, è il nuovo gioco. Carla Rocchi, glielo spieghi lei cosa ma sono. Sì, tutti in cerca del Pokémon. Certo, è un nuovo gioco. Si scarica un'app e si cerca col telefonino, si punta il telefonino, non so. Sì. Magari c'ha un Pokémon sulla spalla, lei non lo sa. Però si vede che questo Pokémon culo, ma che cavolo è? Ma secondo me se adesso incidenti stradali a raffica, perché ma tutti cercheranno quello è questo cavolo di Pokémon. Com'è l'editoriale di Bianconi? Prendono questo l'appeso. Mandate tutti a fare in culo, ma ce lo scriverei un attimo. Siamo al massimo. Ecco, Carla Rocchi, una vita dedicata a spiegare noi qui i Pokémon, ma certo la realtà aumentata, Bianconi. No, c'è poco da aumentare, poi, se quello che piglia un camion e sì, e sì. Sticina 100 persone, Quell'altro ne fa no, altro. Tra l'altro, ecco, ecco, torniamo seri. La questione ancora, basta i complotti. Lì hanno semplicemente sparato in diagonale, perché la persona che sparava non era frontale, ma era in diagonale, e quindi sparava da sinistra. I proiettili sono tutti da una parte del parabrezza, ma sparavano in diagonale per uccidere il guidatore. Non iniziamo con i complotti, no, c'erano no, due persone. Se, dai, se comincia a fare confusione. No, ma non no, ragione, questo è un argomento drammatico. No, ma questo certo, non serve ma certo, veramente. Ma infatti, comunque, ho detto che vi riaccoglievo con Brunetta, ed eccolo qua. Brunetta, anche questo è un argomento drammatico. Brunetta, un bel no per mandare a casa Renzi, un ciaone a Renzi e a tutti i suoi. Renzi è da solo con un pezzo di Alfano e un pezzo di Verdini, ma è solo anche al referendum. Un ciaone a Renzi e a tutti i suoi e cancellare le sue schiforme. Ma gli piace questo ciaone? Ma c'è una cosa che... voi siete giornalisti, bisogna che queste cose... se non gli italiani veramente rincoglioni. Allora, queste riforme sono passate soltanto perché Forza Italia gli ha dato i voti determinanti. Io sono andato via da Forza Italia, dal gruppo, per questo mi hanno vilipeso, offeso, buttato fuori dalla commissione, perché io solo, insieme a Capezzone e un altro paio, si difendeva il no a queste riforme, e questi dicevano che erano le nostre riforme. E adesso le chiama schiforme, capito? E ora le chiama schiforme, io le avevo nominate schiforme, lui siccome è più piccino fa schiforme. Ne cava un pezzettino così di stavavo. Ma è una cosa inaccettabile che Romani, Brunetta, Berlusconi dicano no a delle riforme che hanno determinato, hanno addirittura votato la fiducia sulla legge elettorale. Questa è un'altra prova di quelle. È un'altra prova, Rocchi, ne abbiamo trovata un'altra, sono d'accordo. Vengono a dire ciaone, se avevano votato come gli elettori che l'avevano messo lì chiedevano, di Renzi non se ne parlava già più. Si trovano, Rocchi, si trovano più prove con Bianconi che Pokémon alla Camera. Infatti, ma Bianconi la dice giusta, perché in realtà noi pensiamo che la politica debba essere coerenza, invece la politica è convenienza, almeno quella che si vede in questi anni. Io vedo solo convenienza. Solo convenienza. Però vorrei sapere da Carla Rocchi, cittadina di Roma, allora non ci sarà più il circo, così dice Dara Bignardi, ma sono tornati i centurioni. Come sta andando Virginia Raggi lì a Roma? Insomma, secondo me deve ancora cominciare. Adesso non mi sento di essere... Io non è che ho una fiducia frenata nel futuro di questa città, però devo dire anche che non potrà andare peggio di come andava, lasciatemelo dire. Io non posso credere che andremo peggio di come siamo andati con Marino. Marino ce l'ha qua sul gozzo da... Marino proprio, la Carla Rocchi, Marino non... Niente, Marino non... Se lo incontra per strada, che fa Marino? Che faccio con Marino se lo incontro per strada? Gli lancia un babbuino addosso. Guardi, non ve lo posso dire, è mattina presto e io tutto sommato rimango una ragazza ben educata. niente, a Marino non si sa perché, c'è questa storia del babbuino, faceva gli esperimenti con i babbuini. Guardi, il babbuino poi era povera creatura, c'è e dell'inizio, no? In principio fu il babbuino, però detto questo, dopo il babbuino, le babbuinate che ha fatto poi ne dico un'altra, tutte le scemenze fatte, ogni cosa, tutti dicevano però è così, però è onesto. Adesso io non voglio, di lui non voglio dire neanche una parola, ma della sua sindacatura stanno venendo fuori, come vedete, delle voragini di inciuci, disonestà, la qualunque. Allora, questo la dice lunga sul fatto che una cosa non può giustificare l'altra, che l'onestà presunta deve essere un prerequisito e che comunque quando uno fa cazzate. Rimaniamo eleganti, esatto. Tra l'altro, Carlo Rocchi, qui dovrei leggere un messaggio, sono un pochino imbarazzato, perché i nostri ascoltatori poi vanno su Google, immagino, e trovano le foto, dice: ma che bella donna Carla, appetibile anche per un ragazzo di 20 anni. Ma che carini, ma vera sta cosa? Sì, giuro, è un messaggio del numero che vado a leggere, 3, 4, no, sto scherzando, il numero non lo posso leggere in diretta, ma... dategli il mio, per piacere. Hai un numero. Siamo proprio a questi livelli. Comunque, sentiamola, Virginia Raggi ha firmato l'ordinanza per fermare i centurioni. È arrivato Tronca, ha fatto la ordinanza per i centurioni. È andato via Tronca, appena è scaduta l'ordinanza, sono rispondito puntati i centurioni, ma questa è l'Italia. E allora la Raggi ha dovuto fare un'altra ordinanza, sentite qua. E quindi adesso mi recherò nel mio studio e firmerò le due ordinanze, quelle relative insomma ai centurioni e ai Rishow. Ieri invece in giunta abbiamo approvato un'ordinanza molto importante, che era quella relativa alla determinazione della sanzione. Vabbè, centurioni e Rishow, cioè questa è l'Italia, Bianconi, appena ti distrai un attimo. Dove siamo è il combinato disposto, classi dirigenti di generale e popolo. Io dico, racconto sempre questa: tutti vogliono i politici assolutamente incorruttibili, eccetera, sì. Ma se avete un amico che ha un figliolo e non glielo raccomandate, fate la figura del pezzo di merda. Cioè, sì, bisogna essere... È un po' così. È così, purtroppo è così. Cioè, è un'Italia che in fondo si autorappresenta con questa classe politica, c'è poco da fare. Questo è giusto. Io ho sempre detto che non vengono da Marte, non vengono da Giove. I nostri politici sono la rappresentazione plastica di uno spaccato dell'Italia. Da dove vengono è una cosa, bisognerebbe capire dove vanno. Dove vanno? Per esempio, vogliono star lì, non è che vogliono andare. Non hai ragione. Per esempio, c'è questa storia bellissima: hanno chiesto l'arresto per un senatore, il senatore Caridi. Lo conosce Bianconi? Sì, no, non lo conosco. No, non lo conosce. Subito ne prende le distanze. Conosco Galatti. No, non lo Vabbè. Conosco. Guardi, non c'è così vicinanza fra Senato e Camera. No, lo so. No, comunque, no. Il senatore Caridi hanno chiesto l'arresto per affari di mafia, peraltro. Se dovesse succedere, o comunque se dovesse dimettersi, subentrerebbe a lui il senatore Arena, che era sindaco di Reggio Calabria quando è stata sciolta per mafia, capito? Carla Rocchi. Così rimane anche linea. Stiamo a posto. Quando diceva la Rocchi che al peggio non c'è mai fine. Non è che pensi che... Non c'è mai fine, non è detto che la Raggi sia meglio e non possa raggiungere il fondo di Marino, anche se io confido che questo non sia. Non sia, oh. Sì, su questo siamo d'accordo, francamente, anche perché io ce l'ho tutto sotto il naso, ci vivo e c'è un limite a tutto. Cioè proprio peggio di Marino, dice la Rocchi, peggio di Marino. Ma Marino, ma che fa adesso Marino? Ma cosa farà? Non lo so. Ma lui è medico, no? Sì, viviamo anche senza saperlo, eh? Sì, non è che sopravviviamo. Sopravviviamo anche se lui si fa i cazzi suoi, noi no. Comunque se fosse stato sempre così saremmo tutti meglio, francamente. Vedi che arriva un altro messaggio. Buongiorno, confermo, è veramente bella la signora Carla Rocchi. Oh, ma ragazzi, ma qua... io vi adoro, ma sì. Ma è bellissimo, è un altro messaggio, cioè vedi che la gente va a cercare Carla Rocchi, ENPA, Ente Nazionale Protezione Animale. Allora, nel salutare ancora la nostra Aurorina Lussana e la sua figlia Benedetta, caro Bianconi, che fa, se trova uno oggi col telefonino, un collega alla camera che gira, con un telefonino... alla ricerca di qualcosa e cerca i Pokémon, appunto. Ora ci sto attento, ci guardo, appena lo vedo gli dico con testa di eccetera eccetera. Ma no, come con testa di, magari. Sì, ma non si può neanche da questa immagine qui di investiti al pascolo, insomma non va bene. Incontra uno per gli scranni che gira col telefonino lì, Bianconi, e dice: ma che cacchio fai? Cerco un Pokémon. Quanto vorrei assistere a questa scena. Va bene, vi saluto, Maurizio Bianconi e Carla Rocchi, alla prossima. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Sono le 7:19 minuti e mancano ancora, dopo questa, 6 sveglie all'alba per quel che mi riguarda, e poi 24 mattino andrà in ferie. Contento Peter Bescapelli in regia, Lorenzo Nespoli, tanto tu sei qua a lavorare, anche tu sei qua a lavorare, va bene. Noi il 29 luglio ci fermiamo, riprenderemo il 5 settembre, credo, forse poi, chi lo sa. Va bene, allora siamo qui, questo è il momento della rassegna stampa, della lettura dei giornali, andiamo a sfogliarli. Oh, non sanno di che parlare i giornali, È giovedì 21 luglio, i titoli sono diversificati oggi, il Sole 24 Ore apre su Montepaschi, maxi piano sugli NPL, cioè i non performing loans, e per l'aumento di capitale.